21.08, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi 2 agosto 2017. Peraltro anche per noi è l'ultimo appuntamento di questa stagione e si riprenderà tra circa un mesetto, quindi ai primi di settembre. Come già stato anticipato, la radio pure avrà una piccola pausa di credo 2 settimane. Ci saranno anche delle repliche, ho allestito anche le mie e quindi non sfuggirete. Anche di agosto ci sarà bene o male anche ancora questa voce. 0649 17 50 è il contatto telefonico, il sito internet è www.ondarossa.info anche per usufruire del nostro streaming già abbastanza frequentato. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, questo spazio poi ha una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani metterò la playlist e la registrazione di questo programma, cosa che avverrà ovviamente nel sito della radio stessa. Infine il conto corrente postale 6180 4001, che va intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Videvolci 56 00185, Roma. Salutiamo Alessandra, proprio qui da Roma, come Like Awake, Alexia, Alessio. Da Bari invece Giovanni Lisi, ormai affezionatissimo. Antonella dalla Sicilia. Raffaele da Napoli, sarà Momenti, credo, e Antonio da Firenze. La scorsa settimana ci siamo ascoltati New Rise and Throne e qui c'è questo album che lui fece a metà insieme a un altro progetto di origine francese dal nome Locust Rhyme. Prophets from the Abyss è il titolo di questo lavoro e ci ascoltiamo Interlude, Dragos Ascending e Vortex, Ellis My Home. si chiamava Four Prophets from the Abyss, questo split tra New Rise and Tron, progetto proprio qui dell'entroterra romano, Frascati o Grotte Frati, in questo momento non mi ricordo, credo Frascati, e Locust Orion invece dalla presumibile origine francese. Si chiama Florent Sillery, infatti. Un album che uscì nel 2004. Per quanto riguarda New Rise and Tron, è uscita anche una succosissima compilation che ha ripreso i primi quattro lavori, compreso una parte di questo. Un lavoro che ascolteremo nel ritorno, al mio ritorno in settembre o giù di lì. Intanto salutiamo Nicola Locci Stigmate da un paesino della Sardegna, lo salutiamo. Giovanni Campagna da Copenaghen. Allora, da pochissimi giorni è uscito un ultimissimo lavoro di un gruppo, un progetto proveniente dalla Slovenia, a me particolarmente caro. Si tratta dei Laibach, che io personalmente seguo praticamente da sempre, e hanno stampato un lavoro recentissimo dal nome Also Sprach Zarathustra, e che chiaramente si ispira all'omonima opera di Richard Strauss ed è stato usato per un allestimento teatrale proprio in Slovenia. Nonostante che manchi, diciamo, l'immagine, sia che sia cinematografica o teatrale, il disco rimane un disco eccellente, un disco d'impatto, un disco molto più neosinfonico e marziale rispetto alle ultime produzioni elettroniche di Laibach. E quindi ci andiamo ad ascoltare For Sonnen Untergang, Ein Untergang e Din Unschuld Ein. Yeah. Weil. Eine Brücke. Der Mensch ist kein Zweck. Ein Übergang. Untergang. Der Mensch ist gegen sich selber das Grausamste. Dunkel ist die Nacht. Ich will meinen Untergang. Thank you. particolare ritorno per gli sloveni Laibach, ovviamente da Ljubljana. Laibach, come tutti sapranno, o quantomeno molti sapranno, è il nome, il vecchio nome proprio di Ljubljana. In attività dal 1982 e hanno attraversato tante fasi artistiche, la iniziale monumentale industriale, poi una fase molto più elettronica, molto neoclassicismo e molto neosinfonico, da menzionare anche Macbeth, che in qualche modo viene ripreso in questo Also sprach Zarathustra. Dunque un ottimo ritorno, che andremo anche a conoscere meglio quando ricominceremo in quel del settembre. Intanto salutiamo Urnus Aylin, e appunto grosso progetto industrial italiano, e appunto in Italia rimaniamo e lo facciamo con Soundog 65 del buon Giovanni Campagna, già salutato all'inizio della trasmissione, un artista residente da tempo a Copenaghen e che si muove anche lui sia in ambito industrial ma anche con qualche occhio, secondo me, alla tradizione dei Corrieri Cosmici, stile Tangerine Dream per esempio, e in altri frangenti invece più elettronici. Ci ascoltiamo Futurosity e Disrupted per Soundog 65. Zu lang sind. Ancora Sounddog 65, salutiamo Raffaele Pezzella da Napoli, Fulvio Biondo Sorologi qui da Roma, come Tatiana qui da Roma. Eccole qua le vibrazioni di Sounddog 65. ci inchiniamo di fronte alla genialità di questo Rogue, di questo lavoro di qualche anno fa di Soundhog 65 di Giovanni Campagna, che salutiamo di nuovo con queste correnti circolari avvolgenti. Ottimo lavoro dunque, che riandremo ad ascoltare anche nel mio ritorno a settembre. Veramente un grosso lavoro questo Rogue, consigliato. E nel salutare Giovanni Campagna, noi adesso andiamo in Belgio. Naturalmente ringraziamo Raffaele Pezzella, come al solito, per averci deliziato con questa compilation riguardante proprio la scena sotterranea belga. È quasi inutile dire il titolo, ma comunque Belgium Experimental Underground 17 Survey. Tantissimi artisti raccolti, menzionati, raggruppati in questa lunga compilation. E questa sera è il turno di Trauma Terrestrial. Ci ascoltiamo Cavagé. E questa meraviglia si chiamava Savage, ripetuto più volte da Trauma Terrestrial. Una vera e propria meraviglia sensoriale, circa 13-14 minuti. Io ero in una vera e propria eccitazione sensoriale, devo dire. Un grazie a Trauma Terrestrial, in realtà una collaborazione tra Peter De Koning di Trauma Sutra e Reinout De Vos di Ultra Terrestrial. Il risultato è questo, Trauma Terrestrial, un progetto assolutamente da seguire, caro Raffaele Pezzella. 21:53, si va avanti. E per la gioia di Giovanni Lisi ci andiamo ad ascoltare Einsturzen, noi Biden, naturalmente scherziamo. A molti piace, ad altri meno, tra questi Giovanni Lisi che l'ha sempre ammesso. E noi ci andiamo ad ascoltare proprio gli Einsturzen e Baten da un concerto dal vivo, anche questo dal Belgio, da Bruxelles, nel settembre del 2000. Uno tra i brani più particolari proprio ideati da Einsturzen e Baten, dove anche la voce è in primo piano, anzi le voci, già che c'è proprio un'attività corale, come raramente accade nel gruppo di Blixabargeld. Eccola qua dunque, Naam. No, you age advanced ambient motor music machine. You know, you age advanced ambient motor music machine. You know, you age advanced ambient motor music machine. You know, you age advanced ambient motor music machine. You know, you age advanced ambient motor music machine. You know, you age advanced ambient motor music machine. You know, you age advanced ambient motor music machine. You know, you age advanced ambient motor music machine. You know, you age advanced ambient motor music machine. You know, welcome, advanced ambient motor music machine. You know, you age advanced ambient motor music machine. And his invention, the truly democratic machine. New age advanced ambient motor music machine. New age advanced ambient motor music machine. New age advanced ambient motor music machine. New age advanced ambient motor music machine. New age advanced ambient motor music machine. Advanced and in motor music machine. You know, new age advanced and in motor music machine. You know, new age advanced and in motor music machine. You know, new age advanced and in motor music machine. You know, new age advanced and in motor music machine. Welcome to the first Belgium conference of electro-smog therapists. We'd like to introduce to you Professor Dr. Rudolf Moser of the University of Freisingen, Bavaria, and his self-constructed brainwave cleansing machine. With the verification of the laboratory results, we ask Professor Dr. Dr. N.U.Unruh.com from the University of Brooklyn in New York. From the University of Melbourne in Australia, Dr. Ash Wednesday. He is showing us the results of his scientific research in order to record 20,000 volts of high voltage singing cables. The philosophical groundwork is worked out and laid out by Professor Dr. Jochen Arbeit of the University of Oldenburg. And the men that prove that parallels meet in infinity. From the Humboldt University in East Berlin, Professor Dr. Alexander Hacke.